Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di due thriller, uno contemporaneo e uno ambientato nel Medioevo. Partiamo subito da quello contemporaneo, anche perché state sentendo in sottofondo la colonna sonora del film L'ipnotista, che era stato tratto dal romanzo L'ipnotista del 2009, firmato dagli svedesi Lars Kepler. Ho usato il plurale Lars Kepler perché si tratta di uno pseudonimo dietro il quale si celano, così per dire, una coppia di coniugi, Alexander e Alexander, non è una barzelletta, giuro, si chiamano così, che dal 2009 appunto scrivono insieme una serie di thriller. Quello che ora in libreria si intitola Nella mente dell'ipnotista, pubblicato come sempre in Italia da Longanesi, ed è ovviamente il seguito dell'ipnotista uscito 5 anni fa. L'ipnotista era stato sicuramente un caso editoriale sia nel mondo ma anche in Italia, insomma complessivamente anche con gli altri romanzi che sono L'esecutore, La testimone del fuoco, L'uomo della sabbia. Lars Kepler in Italia ha venduto oltre 600.000 copie, 5 milioni nel mondo. Ma veniamo alla trama di Nella mente dell'ipnotista. Naturalmente il protagonista, manco a dirlo, è l'ipnotista Erik Maria Bark. E a lui si rivolge la polizia quando ha bisogno di svelare dei misteri. In questo caso c'è un uomo, Bjorn, che è l'unico a sapere che cosa sia successo in casa sua, che cosa sia successo alla moglie, Susanna, ma ha un blocco di memoria, non riesce a ricordare, quindi sarà compito dell'ipnotista cercare di far luce in quanto accaduto. E l'ipnotista farà luce anche sul serial killer che si aggira per Stoccolma, che ha una caratteristica: filma le sue vittime, invia il video alla polizia appunto come per sfidare le forze dell'ordine, poi si introduce nella casa delle sue vittime e le insegue stanza dopo stanza e infine le uccide. Insomma, è un thriller di quelli veramente, veramente pulp, veramente pesanti. Poi a vederli di persona, Lars Kepler sembrano due facce d'angelo, anzi andatele a vedere su Google, digitate Lars Kepler, perché vi posso assicurare che non ci si aspetta che da quest'uomo e questa donna così carini e anche così timidi possano venire fuori queste trame così, così potenti, insomma così forti. Ma perché tornare sull'ipnotista a distanza di alcuni anni? Adriano Palazzolo ha incontrato Alexandra e Alexander, e quindi Lars Kepler, e gliel'ha chiesto. Sentiamolo. Questa volta c'è un testimone traumatizzato e la soluzione migliore per lui è essere visitato da un vero esperto. Per questo motivo l'ipnotista è tornato. Lo abbiamo anche aspettato a lungo. Ci siamo davvero divertiti a scrivere di lui nel primo romanzo e ci siamo chiesti spesso come se la fosse cavata in questo periodo, che cosa stesse facendo. Noi non lo sapevamo e dunque volevamo incontrarlo ancora. Il killer di cui si occuperà questa volta l'ipnotista si crede alla morte in persona. Cos'è che gli dà questo senso di invincibilità? Uno stalker è sempre spinto dall'amore. Pensa che sia amore, ovviamente, ma essere uno stalker è come avere una dipendenza da una droga. Hai sempre bisogno di averne di più. Si comincia con l'amore, ma dopo un po' senti l'istinto di avvicinarti di più, di entrare dentro un'abitazione, di toccare gli oggetti. Ma in ogni momento, all'improvviso, lo stalker può cambiare e diventare una persona molto violenta. Quando abbiamo analizzato il fenomeno dello stalking, ci siamo resi conto del fatto che il profilo psicologico è simile a quello di un serial killer. In Svezia è un fenomeno così comune. Penso che il 9% della popolazione sia stato vittima di stalking. E come diceva Alexander, è un qualcosa che va sempre peggiorando. Non c'è fine ai bisogni di uno stalker. E per quanto ci riguarda, noi volevamo scrivere un libro sul peggior stalker possibile. L'omicida filma le sue vittime e manda le registrazioni alla polizia. Perché lo fa? È una sorta di narcisismo, una voglia di lasciare indizi o di essere scoperto? Credo sia entrambe le cose, ma questo stalker è molto narcisista e ha bisogno di vedere ed essere visto. Inoltre, l'essere filmati è anche un atto di accusa dello stalker nei confronti della vittima, come in un processo. Le vittime vengono processate e giustiziate. Filmando, il nostro stalker formula i capi d'accusa. Perché questa donna è così attraente, ad esempio? Perché deve essere uccisa? È la paura profonda che abbiamo tutti di essere visti, osservati, senza essere in grado di controllare questa cosa. Ed essere ripresi è anche peggio. Il pensiero di qualcuno che ti osserva da fuori e che ti filma quando non te ne rendi conto è come un incubo. Da dove arrivano le idee per descrivere degli omicidi così crudeli ed efferati? Scriviamo sempre di ciò di cui abbiamo più paura. Tra di noi parliamo della trama, ma anche delle nostre paure più profonde. E poi le scriviamo nel libro. L'oggetto delle nostre discussioni è sempre cosa ci fa venire le palpitazioni. E questa volta si tratta dell'essere osservati. Ci siamo trasferiti da un appartamento in una villetta. E questa casa ha grandi finestre, quindi abbiamo cominciato a pensare di essere osservati continuamente. E in Svezia è sempre buio, per buona parte dell'anno fuori è sempre buio, e quando sei a casa con le luci accese è come se fossi su un palcoscenico, o meglio, in un acquario. Puoi stare attaccato alla finestra per guardare fuori e non vedere nessuno fuori, mentre gli altri possono vederti. Adesso però fermiamoci qui con la trama del romanzo per lasciare ai lettori il gusto della sorpresa. Parliamo un po' di voi e cerchiamo di scoprire chi è Lars Kepler e com'è nata l'idea di unire le vostre forze e creare un nuovo scrittore. The whole thing started with us being married. Tutto nasce dal fatto che siamo sposati da molti anni e che condividiamo tutto. Amiamo fare ogni cosa assieme. Eravamo già entrambi scrittori e abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico se avessimo potuto scrivere assieme, perché quello della scrittura è un mestiere molto solitario. Quindi ci siamo detti, perché non provare? Abbiamo cominciato a scrivere testi per il teatro, ma abbiamo cominciato a litigare. È stato orribile. Allora abbiamo provato con qualcosa di più facile. Ci siamo detti, scriviamo libri per bambini. Ed è stato ancora peggio. Abbiamo continuato a litigare perché ognuno di noi ha un proprio stile di scrittura. Quindi ci è venuta l'idea che per scrivere assieme dovevamo creare un nuovo scrittore. Ed è così che è nato Lars Kepler. E non appena abbiamo inventato il nome, è stato tutto così facile, così divertente. Abbiamo iniziato e abbiamo capito che a Lars Kepler piacevano i thriller. And when we had Lars Kepler, we understood that he's into thrillers, so... Penso che entrambi abbiamo un'immaginazione molto vivida. Io e Alexander siamo pieni di paure, perché finiamo sempre a scrivere queste storie così cupe, dark. Noi vogliamo che queste storie siano piene di tensione e sappiamo che sono estremamente spaventose per alcune persone, ma alla fine penso che siano storie con una visione ottimistica della vita, perché finiscono bene e perché c'è sempre un eroe. Nel mondo in cui viviamo c'è così tanta violenza vera che non si potrebbe mai scriverla tutta in un solo libro. Per quel che ci riguarda, noi trattiamo la violenza e la paura e il risvolto poi è tutto positivo, quasi tutto. Quando pensate a Lars Kepler, pensate mai alla sua personalità? Ci sono dei pregi e dei difetti di entrambi che sono finiti in questo pseudonimo? Quando abbiamo cominciato a scrivere, per noi era importante vederlo, conoscerlo, sapere cose su di lui. Abbiamo anche fatto un suo ritratto. Abbiamo inventato il suo passato, le sue esperienze. Adesso non lo facciamo più, ma penso, in quanto scrittore, che lui abbia molto di entrambi come persona, ma che poi sia un uomo del tutto particolare, con un suo stile unico che non è affatto come il nostro di quando eravamo scrittori. Like our styles when we were writers by ourselves, so And he is when we write our lives become very isolated and intense and quando scriviamo le nostre vite tendono ad isolarsi, siamo molto presi e a volte all'improvviso Alexander comincia a bisbigliare, una cosa abbastanza inquietante in realtà, e io sono dietro di lui davanti al computer e non lo so, forse è Lars che parla, non lo so. Io invece comincio ad avere gli incubi e a un certo punto, quando scrivo, sono così coinvolta dalle nostre storie che ho lo stesso incubo tutte le sere fino a quando non completiamo il libro. Poi tutto finisce e si ritorna alla normalità. Forse anche questo è Lars. Maybe that's Lars also. Yeah, well, the whisperings. Yeah, I can imagine it's a bit creepy to sit. Beh, sì, posso capire che il bisbiglio sia abbastanza inquietante quando mi stai accanto. Ma sento i personaggi quando parlano nei dialoghi e quando li scrivo. Bisbiglio. Non è inquietante. Non penso, dai. È naturale. Cosa fate quando decidete di scrivere un nuovo romanzo? Come vi vengono le idee? Come funziona la fase della scrittura in pratica? Ogni volta che finiamo di scrivere un libro, penso sempre, è finita, sono vuota, non potrò mai più scrivere nient'altro adesso. Ma poi, così, spontaneamente, cominciamo a vedere cose, a pensare, a parlarne, e penso sia la storia ad arrivare a te come scrittore. Non abbiamo mai dovuto cercare le storie, sono loro che arrivano a noi, bussano alla porta e ti dicono, eccoci qua. Quando cominciamo a sviluppare la trama, ci mettiamo in auto e iniziamo a guidare. Anzi, lui guida mentre parliamo ed io prendo appunti. Sederci in auto e guidare a lungo per noi è il modo migliore per iniziare a lavorare su un nuovo romanzo. Guidare ci aiuta a trovare il fulcro della storia. Quando guidi sei isolato dal resto del mondo. Siamo io e lei seduti l'uno accanto all'altra e magari si guida anche per 5 o 6 ore. Poi torniamo a sederci al tavolo della nostra cucina e cominciamo a mettere ordine tra gli appunti per avere uno sguardo completo sulla trama. Anche questo romanzo, come il primo, è diventato già un bestseller. Secondo voi, qual è l'ingrediente del vostro successo? Credo che scrivere thriller sia semplicemente una questione di empatia. Devi tenere ai tuoi personaggi e condividere, in un certo senso, il loro destino. Questa è la cosa più importante. Creare personaggi di cui ti importa sia come scrittore, sia come lettore. Molte persone dicono che i nostri libri sono carichi di tensione, ma io spero che sia perché quando ti affezioni ai personaggi di una storia non vuoi che accada loro nulla di male. È in questo momento che arriva il momento di tensione. Accade anche quando scriviamo. Siamo seduti sulle nostre sedie e iniziamo a piangere o a gridare perché siamo totalmente presi dalla storia. Forse è anche questo uno dei segreti del thriller. Quando scrivere le storie dei personaggi diventa un processo intenso e davvero sincero. Honest process. And I think readers feel when the writer is honest. Penso che il lettore si accorga quando lo scrittore è sincero, quando scrive di cose e persone di cui gli importa veramente, quando anche il suo cuore comincia a battere più velocemente per la storia. Credo che questa sia la chiave di un thriller riuscito. I think that's the key. Il primo episodio dell'Ipnotista è diventato un film. Ci sono possibilità di vedere anche questo episodio al cinema? Ci potete anticipare qualcosa? Well, The Hypnotist was a movie that we weren't involved in. L'Ipnotista è stato un film realizzato senza il nostro coinvolgimento e quindi ci siamo sentiti come se non avessimo avuto il controllo. Per questo nuovo romanzo stiamo pensando di farne una serie TV e penso sia una formula migliore perché adesso in televisione ci sono prodotti di alta qualità. Speriamo che questo possa accadere presto e anche di essere coinvolti nella realizzazione. E questa che avete sentito era l'intervista di Adriano Palazzolo agli autori che si firmano, agli autori svedesi che si firmano con lo pseudonimo Lars Kepler, ora in libreria con Nella mente dell'ipnotista, pubblicato da Longanesi. E ora vi parlo di un altro romanzo che si intitola La pietra per gli occhi, Venezia 1106 D.C. d.C., insomma, pubblicato da E.O., scritto da Roberto Tiraboschi. È un romanzo storico, siamo appunto nella Venezia medievale, Venezia che, si dice nello stesso romanzo, all'epoca non era ancora la Venezia ricca, mercantile che siamo abituati a conoscere anche dal punto di vista storico, ma era solo un agglomerato, diciamo, di isolotti in una laguna. Roberto Tiraboschi, innanzitutto perché hai scelto Venezia e quel periodo storico per ambientare poi la storia del protagonista che si chiama Edgardo? Dunque, l'ambientazione nasce dal grande amore che ho e che ho sempre avuto per Venezia. E da lì mi è nata la curiosità di capire come poteva essere nata, come era sorta Venezia, perché siamo sempre abituati a vederla così, ad ammirarla lungo il Canal Grande, i palazzi, ma c'è stato un momento in cui Venezia non era nulla, erano, come dicevi, isole abbandonate, fangose, con una vita difficile, le case erano immaginate delle case di paglia e assi di legno, con costruzioni che non avevano ancora nessuna grandiosità, non c'erano pietra, non c'era mattoni, era tutto legno e paglia. Le uniche costruzioni nel 1100 di cui si ha notizia che erano già in muratura e in pietra d'Istria sono la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Ma il Palazzo Ducale non era come lo vediamo adesso, era un castello vero e proprio. Poi piano piano su questi isolotti è cresciuta una civiltà che è diventata quella che noi conosciamo, e poi nel 500, nel Rinascimento, lo splendore di Venezia. Dicevamo che questa Venezia medievale, questa Venezia che, come dire, è un agglomerato di isolotti, insomma, nella laguna, fa da sfondo alle vicende di Edgardo. Edgardo, un figlio, insomma, di una famiglia benestante, viene di fatto cacciato di casa perché ha delle malformazioni, insomma, e quindi finisce per rifugiarsi in un'abbazia, l'abbazia di Bobbio. Qui diventa amanuense, quindi il suo lavoro consiste nello scrivere, insomma. A un certo punto però, ed è qui che nasce tutta la vicenda del romanzo La pietra per gli occhi, lui si ammala, inizia a perdere la vista, insomma ha una malattia per cui potrebbe finire per perdere la vista, e da qui parte il suo viaggio per Venezia alla ricerca di una pietra che, secondo alcuni, potrebbe guarirlo da questa sua malattia. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare un po' di Edgardo e del suo compagno di viaggio. Con chi è che va a Venezia e che cosa incontrano? Che cosa vedono arrivando appunto per la prima volta in questa città, per la prima volta almeno per Edgardo? Edgardo viene accompagnato da un amico, compagno, chierico, anche lui amanuense, che si chiama Ademaro, e vengono da Bobbio, che era una famosa abbazia con una grandissima biblioteca vicino a Piacenza, e vanno a cercare libri, naturalmente che non sono ancora libri, sono manoscritti, all'isola di San Giorgio, dove c'è un'altra abbazia molto importante. E lì a Venezia Ademaro ha sentito parlare da un mercante di una certa pietra che usano in Oriente, che si chiama pietra lapides ad legendum, cioè pietra per leggere, pietra per gli occhi, cioè una pietra miracolosa che aiuta la vista malata, che aiuta i vecchi amanuensi a vederci meglio. Allora questa speranza lo porta a seguire Ademaro in questo viaggio a Venezia alla ricerca di questa pietra. E qui, insomma, ne succedono, diciamo, un po' di tutti i colori adesso, sì. Per semplificare, perché il romanzo è un romanzo che si intreccia a un giallo, nel senso che ci sono diversi misteri, ci sono degli omicidi anche, e Edgardo e il suo compagno d'avventure, chiamiamolo così, si trovano coinvolti in questi misteri, cercano di capire che cosa sta accadendo a Venezia, che cosa succede in quella città. Prima citavi la Basilica di San Marco, ed è importante anche la Basilica di San Marco perché tu descrivi in questo romanzo l'arte appunto dei maestri vetrai, che proprio in quel periodo cercano di capire come abbellire la Basilica di San Marco. Ecco, in tutti questi riferimenti storici ti sei basato su elementi veri o hai dato un po', come dire, spazio alla tua fantasia? No, tutte le ricerche che riguardano i vetrai, la terminologia, anche tutto quanto si riferisce alla Basilica, sono tutti elementi storicamente dati, storicamente attendibili. E E c'era però soprattutto nel mondo dei vetrai una ricerca vera, documentata, molto una lotta e dei conflitti molto forti per la ricerca di ricette sempre diverse, di vetri sempre più raffinati, sempre più speciali, con colorazioni particolari. E quello a cui tutti aspiravano, perché allora non esisteva, era un vetro puro, un vetro completamente trasparente. Quindi questo vetro puro e trasparente che noi oggi usiamo e conosciamo normalmente, allora non esisteva. Chi avesse raggiunto e trovato la ricetta di questo vetro, certo, avrebbe avuto in mano una scoperta veramente straordinaria, che poi infatti ha cambiato la nostra storia, perché tutta la scienza è nata con la scienza poi seguente e anche le scoperte, pensiamo alle scoperte astronomiche, mediche, eccetera, sono legate poi alla scoperta al vetro, del alle lenti, insomma. Alle lenti, alla scoperta del vetro trasparente. Il vetro c'entra anche perché appunto questo killer, oggi lo definiremmo killer, all'epoca naturalmente non lo chiamavano così, compie dei delitti, uccide cioè delle persone, cava gli occhi e li sostituisce appunto con delle pietre, con delle pietre di vetro, insomma. Ovviamente non possiamo dire che cosa, chi si cela, eccetera, ma possiamo dare qualche elemento sui delitti che vengono commessi. Sì, sono delitti molto, appunto, come dicevi, molto efferati, molto, insomma, cavare gli occhi e sostituirli con dei pezzi di vetro colorati non è una cosa da poco, anche se la crudeltà nel Medioevo non si risparmiava. Ma questi delitti sono dei segnali, sono dei segni che questo assassino vuole lasciare, e questo lo scopriremo perché e come e che significato hanno questi segni. E sono tutti omicidi che ruotano tutti intorno al mondo dei vetrai. Sono due garzoni, un cristallaio, perché c'erano coloro che lavoravano, i cristalleri lavoravano i cristalli, mm-hmm. Cioè il cristallo da rocca era un altro lavoro ancora rispetto a quello dei vetrai, e ruotano tutti intorno a questo mondo, perché è lì che si sta compiendo lo scontro e c'è la lotta più dura per arrivare a raggiungere questo segreto, questa ricetta segreta. Il modus operandi, insomma, del killer sembra essere un po' quello dei serial killer contemporanei, nel senso che lascia come degli indizi, lascia la sua firma, insomma, sui delitti. In questo, appunto, ti sei fatto influenzare dalla modernità, oppure anche all'epoca, nel Medioevo, operavano nella stessa maniera, insomma lasciavano un po' una firma, volevano essere scoperti? Chi può dirlo? Beh, questo è un po' un'influenza, è un'influenza che naturalmente per chi scrive un romanzo noir, un po' thriller, risente comunque della nostra cultura e della cultura odierna, anche se è vero che io ho trovato i resoconti dell'epoca, forse un po' posteriori perché allora c'era pochissimo di scritto, ma di delitti che si ripetevano, di violenze soprattutto che si ripetevano simili anche a quei tempi. Ovviamente parlando di questo libro viene in mente il thriller storico proprio per eccellenza, non solo italiano ma forse direi anche a livello internazionale, Il nome della rosa di Umberto Eco. È sicuramente il libro italiano più venduto nel mondo, credo, è stato un best seller, è un long seller perché ancora oggi si vende, e lo ricorderete, forse le atmosfere erano simili, nel senso che in quel caso c'era l'abbazia, c'erano anche i libri, c'erano gli occhiali, le lenti attraverso cui leggere questi libri e così via. Tu ti sei fatto un po' ispirare dal nome della rosa o no, insomma? Ma io devo dire, per me è stato un punto di riferimento dal quale poi non si può prescindere, perché è stato io un libro che ho letto più volte, è stato proprio un faro per me nella scrittura, con la differenza ovviamente che il mio si svolge un po' di anni prima, quindi per esempio le lenti non c'erano ancora, e l'ambientazione poi dell'abbazia è una tematica che c'è anche nel nome della rosa, c'è anche nel mio romanzo, di rapporto tra la chiesa, la cultura, la conservazione della sapienza. Sono ambienti che danno anche molto mistero, insomma. Danno mistero, e poi sono i temi effettivi di quegli anni. anni, per cui è impossibile prescindere da un amanuense se bisogna parlare di scrittura, perché solo i monaci, solo i chierici sapevano copiare, erano rarissime le persone che avevano la scrittura, che possedevano la scrittura. Grazie Roberto Tiraboschi, ora in libreria con il romanzo La pietra per gli occhi, Venezia 1106 d.C., pubblicato da EO. Ed è tutto anche per questa puntata, vi ricordo che la potete trovare su podcast a radio24.it, mi potete seguire su Twitter come Ale Teddina e naturalmente su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.